Eccoci, ben ritrovata. Mi sono tremati i polsi, dico all'economista, sta dicendo. Ah, che, no. Che quasi le pietre che sarebbero volate. Dicendo, ben ritrovata, Deborah Rosciani, mi ero saltato la sigla. Vabbè, così. Cose che capitano in diretta, che era tra l'altro l'oggetto della nostra discussione. Capita anche peggio. Capita anche peggio. Di peggio, magari un giorno ci intratteremo i nostri ascoltatori anche su questo, Alessandro. E allora, oggi parliamo di un bel tema, un tema trasversalissimo, Alessandro, le multe, chissà quanti ci stanno ascoltando e fanno infrazioni in questo momento, esatto. Passano col rosso. E chissà quanti dei nostri ascoltatori, magari qualche indisciplinato automobilista, ne ha in sospeso con la propria amministrazione, magari già dal 2004, siccome si sta aprendo questa opportunità di sistemare questi carichi pendenti, chiamiamoli così, con delle sanatorie, oggi cercheremo di capirne qualcosa di più, perché molti ascoltatori ci hanno scritto, noi avevamo già rudimentalmente, passatemi questo brutto termine, parlato già a Salvadanaio quando se ne parlava di questa cosa ad inizio del mese. Adesso sembra si concretizzi questa sanatoria, probabilmente si parte da Roma e forse si adegueranno anche altre città. Buongiorno al nostro esperto di questi temi, il comandante della Polizia Municipale di Monza, Silvio Scotti. Comandante, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ad ottobre arriva la possibilità di sanatoria per tutte le contravvenzioni comminate ad indisciplinati automobilisti prima del 31 dicembre 2004 e mai pagate. Quindi chi ha commesso infrazioni al codice della strada fino a questa data e non ha mai saldato i conti non dovrà più pagare gli interessi e tutte le maggiorazioni, ma si limiteranno a pagare, se non ho capito male come funzionerà, comandante, per la sanzione una maggiorazione del 4% che in realtà andrà a favore della società concessionaria. Chiariamo prima di tutto che per il momento si dovrebbe partire solo da Roma e poi in base a che cosa le altre città decideranno, comandante? Dunque, innanzitutto diciamo subito che è un sistema ai quali i comuni possono aderire oppure evitare di farlo. Infatti la legge dice che i comuni possono proporre questo tipo di sanatoria, è necessaria quindi una delibera della giunta comunale per poter aderire a questo tipo di sanatoria. Diciamo anche che in luogo del raddoppio della sanzione più gli interessi si pagherà soltanto una somma pari al minimo della sanzione. Poi, come giustamente sottolineato, un 4% che è dovuto per quanto riguarda il riscosso e successivamente le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate per le spese di notifica. Senza dubbio comunque si tratta di una cifra decisamente ridotta rispetto a quella originaria. Mm-mm. Tenuto conto che nel caso di cartelle già notificate, questo è molto importante, e già saldate, qualora il comune successivamente intendesse adottare questo tipo di procedura, la procedura stessa non dà luogo ad un diritto di rimborso da parte di chi ha già pagato. Quindi per chi ha già pagato non ottiene i soldi indietro, diciamo che l'amministrazione è interessata solamente a sistemare la questione per chi invece non ha pagato, in modo tale da poter sistemare anche vecchie questioni di bilancio che probabilmente farebbero comodo, no? In una fase molto difficile anche per i bilanci degli enti locali in questa fase. Si parte a Roma, dicevamo, scelta come città pilota dell'intera operazione, si stimano circa 400.000 automobilisti morosi, 2 milioni e mezzo di verbali non saldati e da qua insomma abbiamo anche un po' la misura dell'interesse di qualche amministrazione a sistemare queste, li ribadisco ancora, li ridefinisco così, comandante, carichi pendenti. Secondo lei quante amministrazioni si adegueranno? Tutte le grandi città? Perché qualcuno ha già detto che di questo condono non ha intenzione di approfittare. Ma dunque diciamo innanzitutto che esistono due profili, quello politico e quello tecnico, perché qualche amministrazione ha già detto che non intende favorire i cosiddetti furti. No, tra l'altro sì, Alessandro Milan proprio adesso mi ricordava che per esempio Milano non ha intenzione di farlo. Non che io abbia carichi pendenti. Non avevo... lo dico io, se devo un euro a qualcuno, come dice Benigni, gli dormo sullo zerbino. Sì, perché se tu l'avessi, ce l'avessi confessato qua candidamente. Comandante, torniamo a lei. Bene, l'altro aspetto è quello tecnico. Per esempio la valutazione che ho fatto io personalmente è che un procedimento di questo tipo, per quanto riguarda la situazione del Comune di Monza, non è conveniente, nel senso che abbiamo, siccome le cartelle esattoriali sono già state emesse da parecchio tempo, le persone che all'attualità non hanno saldato sono quelle non capienti, quindi laddove la procedura esecutiva non trova beni e di conseguenza non troverebbe beni escutibili né per 200 euro né per 500. Come dovrà funzionare concretamente? Allora, ricordo ancora, per adesso questa possibilità riguarderà solo i cittadini di Roma. Concretamente, che tipo di avviso arriverà da parte dell'amministrazione? Una lettera dall'agente di riscossione, che se non mi sbaglio è la Gerit, che non dico che formato avrà, comandante, ma insomma come ci si dovrà comportare? Perché magari è anche possibile che in questo frangente, in questo lasso di tempo, i cittadini che vengono considerati morosi in questo caso abbiano magari attivato anche dei ricorsi contro queste multe. Diciamo innanzitutto che a fronte di un ricorso la procedura esecutiva viene sospesa fino a che non è deciso il ricorso stesso, quindi questo è fondamentale perché si aspetta la decisione dell'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda invece i cittadini, laddove i comuni intenderanno aderire, nello stesso atto, nella stessa delibera di giunta, verranno stabilite le forme con le quali dare un avviso, ovviamente per iscritto, ai singoli contribuenti perché possano aderire a questa sanatoria. Allora, mi pare di aver capito che questa possibilità di chiudere le questioni in sospesa appunto con le amministrazioni relativamente a multe non pagate attraverso questa sanzione del 4% riguarda appunto solo i verbali emessi entro il 2004. Per quelli invece emessi negli anni successivi la procedura, come dire, di regolarizzazione dovrebbe essere diversa? C'è addirittura una possibilità di rateizzazione, comandante? Ma dunque, precisiamo che la possibilità di rateizzazione esiste comunque, nel senso che a fronte alla cartella esattoriale è possibile accedere alla rateizzazione laddove l'ente lo consenta. Tuttavia effettivamente ci fermiamo al 31/12/2004, quindi tutti i verbali dal 1 gennaio 2005 in poi, no, di fatto verranno escussi col normale sistema e quindi con una maggiorazione decisamente elevata rispetto alla cifra originaria. Comandante, noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione questa mattina, dobbiamo dare un'ultima raccomandazione che non abbiamo detto a Soldi e dintorni relativamente a questa questione? No, direi di no, direi che i cittadini devono informarsi presso il loro comune, laddove abbiano dei sospesi, e chiedere se il comune aderirà a questo tipo di possibilità, che si presenta diciamo come pura possibilità e non come obbligo, bisogna sottolinearlo. E insomma, abbiamo capito che in ogni caso, anche se ci sembra di aver avuto ragione anche di un atteggiamento un po' furbo verso l'amministrazione, perché magari multe vecchissime non le abbiamo pagate e così abbiamo pensato anche di averla scampata, Alessandro, abbiamo capito stamattina che le multe ci inseguano nonna, per come, tutte le vite, come le lire di ieri mattina. Comandante, buona giornata, a presto. Arrivederci. Sicuramente a presto, perché qualora anche le altre amministrazioni dovessero adeguarsi dovremmo spiegare meglio ai nostri ascoltatori appunto come fare per sistemare le proprie posizioni. Allora, Salva Danaio, le 12. Allora, oggi c'è una manifestazione a Roma delle associazioni dei consumatori contro il caro vita e noi la racconteremo in diretta. C'è anche un'iniziativa della Coldiretti, un'operazione trasparenza sui prezzi, e spiegheremo anche quell'iniziativa lì. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano sono queste. Dopo il vertice sul clima, oggi entra nel vivo la 64esima Assemblea Generale dell'ONU. Tra gli interventi previsti anche quello del presidente iraniano Ahmadinejad, e la Francia ha fatto sapere che le delegazioni dei 27 paesi dell'Unione potrebbero lasciare la sala in caso di provocazioni. La politica, oggi è in programma al Senato la votazione sullo scudo fiscale allargato rispetto alla stesura iniziale. Il provvedimento prevede garanzie anche per alcuni reati tributari come il falso in bilancio e la distruzione di materiali contabili. L'opposizione attacca un provvedimento vergognoso. Per la cronaca, il delitto di Garlasco, nuovi accertamenti potrebbero aggravare la posizione di Alberto Stasi, accusato di aver ucciso nell'agosto 2007 la fidanzata Chiara Poggi. Un film girato dalla parte civile dimostrerebbe che Stasi avrebbe potuto compiere l'omicidio e fuggire in bicicletta nei 26 minuti di buco del suo alibi. Infine, per il calcio, stasera turno infrasettimanale di campionato. La capolista Sampdoria è impegnata a Firenze, tra le altre partite Inter-Napoli e Udinese-Milan. L'altra capolista, Juventus, gioca invece domani. E allora alle 8.35 minuti siamo pronti per il nostro sondaggio. Bianco o nero? It's like looking through binoculars, observing people on a far off beach, running around in circles, fixated on the small area of sand under their feet. Quello che sentite in lingua originale è il trailer di un film che si intitola The Age of Stupid. Il messaggio del film è chiaro, un documentario dall'impatto devastante. Se non si inverte la tendenza sui gas serra nei prossimi 5 anni, l'umanità sarà estinta entro il 2055. Why didn't we save ourselves when we had the chance? Evacuate! Evacuate! Evacuate! How many people can afford a 1 rupee fare? The Age of Stupid, fatto vedere ieri a tutto il mondo, è un po' il simbolo di come sostanzialmente, se non si interviene, la Terra irrimediabilmente andrà verso un lento declino, insomma succederanno dei gravi problemi. Gli stupidi ovviamente saremmo noi tutti gli abitanti della Terra che devono intervenire e non possono. Obama ha parlato di catastrofe se non si agisce. Professor Battaglia, Franco Battaglia, buongiorno. Buongiorno. Lei si sente uno stupido? Glielo chiedo subito, quanto abitante della Terra? Lascio giudicare agli altri. No, non lo so, visto. Sono stupido. Beh sì, guardi, questa è l'età degli stupidi, su questo non c'è dubbio. Immagino che lei lo intenda in un altro senso. Insomma, Obama ha parlato di catastrofe. Con lei c'è anche Sergio Castellari, che saluto. Professore, buongiorno. Buongiorno. È ricercatore del Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici, tra l'altro anche portavoce per l'Italia di quel IPCC che vinse nel 2007, credo, il premio Nobel per la pace, esatto, insieme ad Al Gore. Oggi ho letto in rassegna stampa anche un'intervista alla stampa del presidente dell'IPCC che dice bisogna intervenire. Insomma, catastrofe, Battaglia, lei notoriamente è uno di quegli scettici che di fronte ai cosiddetti catastrofisti, che sono per la verità una minoranza dell'approccio sul tema, dicono non si fa così. Però lei rischia di diventare uno scettico un po' su tutto. Obama ha sbagliato a parlare di rischio catastrofe? Beh, certo che ha sbagliato. Guardi, noi effettivamente saremmo ricordati come l'età degli stupidi dalle future generazioni, le quali appunto si chiederanno: ma com'è possibile che c'è un pianeta, un'umanità che si sta preoccupando di un problema che non esiste? Il problema che non esiste appunto è il problema dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo. E Obama sì che sbaglia, ma al di là di tutto ciò c'è un fatto, è da 20 anni che questi signori continuano a dirci bisogna fare qualcosa e subito, però cortesemente vorremmo sapere cosa bisogna fare esattamente. Vogliamo sapere, per esempio, dobbiamo ridurre le emissioni di CO2, bene, che ci dicano di quanto e vediamo se la cosa si può fare. Questo non è difficile dimostrare che non si può fare. Questo però non è un problema più politico. Oggi il Corriere della Sera, guardi, lo sottolinea, dice: di fronte da una parte ci sono i proclami, dall'altra i negoziatori, e anche Ban Ki-moon l'ha detto, gli stati, i negoziatori stanno facendo poco, le trattative sono a livello glaciale. Però questo è un problema politico, se poi agire. È un problema tecnico, perché non è un problema politico, è un problema tecnico, è un problema che tecnicamente non ha soluzioni, e quindi questi continuano a chiacchierare facendo apparire il problema come un problema politico. Per ridurre le emissioni di CO2 anche di pochi punti percentuali è semplicemente impossibile se si va a fare un minimo di aritmetica. Guardi, nel 2001 io scrivevo, sono editorialista del giornale, scrivevo nel giornale che queste riduzioni non ci sarebbero state. Il protocollo di Kyoto poi è stato approvato nel 2003, siamo al 2009, le emissioni di CO2 non sono diminuite, ma addirittura sono aumentate anche in quei paesi che hanno partorito quel mostro che è il protocollo di Kyoto. E ci sono delle ragioni tecniche, perché l'alternativa, la riduzione delle emissioni di CO2, significa la morte di milioni di persone, per ragioni che magari poi dirò dopo, facciamo parlare anche il professor Castellari. Ci mancherebbe. Allora, professor Castellari, partiamo da questo dato. Io voglio ricordo, tra l'altro, il sondaggio è sul sito radio24.it, alla sezione bianco-nero, per votare. La domanda che ci vogliamo chiedere è questa: ma c'è davvero un pericolo concreto, un rischio catastrofe, come dice Obama, per il futuro della Terra? Professor Castellari, Battaglia dice è un non problema che l'uomo agisca o possa agire negativamente sui cambiamenti climatici. Lei che replica? Buongiorno, credo che sia molto difficile definire i cambiamenti climatici un non problema. Abbiamo migliaia di scienziati, climatologi, oceanografi, biologi, botanici, zoologi che lavorano da almeno 30 anni su questo problema. Abbiamo presidenti di importanti nazioni come Stati Uniti, presidente della Commissione Europea, abbiamo documenti del Consiglio Europeo, dell'Unione Europea, documenti nei vari governi che definiscono suggeriscono anche i numeri di riduzione, quello che credo che il professor Battaglia non sia informato, quindi suggerisco di leggersi molti di questi documenti. Abbiamo da una parte il lavoro dell'IPCC, che è un lavoro puramente di raccolta di informazioni ed è fatto in base volontaria da 3.000 scienziati ogni 6 anni. Dall'altra parte abbiamo dei rapporti dove ho visto che ha scritto anche il professor Battaglia, scritto da 23 contributori, da 23 autori che chiamano il Non Governmental Panel Internazionale sul Climate Change. Dall'altra abbiamo 23 scienziati che dicono che la CO2 non è aumentata, che la CO2 non è uno dei driver principali del cambiamento climatico negli ultimi 30 anni almeno, e che non è aumentata con l'attività umana, con l'uso del petrolio, l'uso del carbone negli ultimi 150 anni, e dall'altro abbiamo 3.000 scienziati della comunità climatica che invece hanno pubblicato su giornali peer review, cioè su giornali con revisione anonima, e hanno pubblicato centinaia e centinaia di pubblicazioni su questo argomento. In più abbiamo politici dei più grandi paesi del mondo che hanno avuto hanno chiesto ai loro esperti scientifici di valutare il lavoro di queste pubblicazioni, il lavoro dell'IPCC, e hanno deciso di prendere un'azione su questo. Sentiamone uno ieri, che in realtà è stato approvato nel 1997, cioè è stato definito. Sentiamone uno, professor Castellari, Obama, glielo faccio sentire, sono pochi secondi, in lingua originale, così magari lo apprezzate anche ieri, ovviamente. The threat from climate change is serious, it is urgent, and it is growing. Our generation's response to this challenge will be judged by history. For if we fail to meet it boldly, swiftly, and together, we risk consigning future generations to an irreversible catastrophe. Ah, forse la parola finale, per chi non sa l'inglese, è irreversible catastrophe, cioè rischiamo di dare alle generazioni future una catastrofe irreversibile se non agiamo. Il professor Castellari la condivide, insomma, o dobbiamo incasellare anche Obama nei neocatastrofisti? Guardi, Obama ha sicuramente uno del Dipartimento di Stato, del Dipartimento di una divisione che lavorano proprio sui cambiamenti climatici, che li fanno da consulenza, sicuramente gli ha spiegato alcune pubblicazioni che sono usciti dall'Accademia Nazionale delle Scienze Americane, quindi stiamo ritornando a parlare di cose serie fatte da Accademie Nazionali degli Stati Uniti. È un giornale che si chiama PNAS, quindi Proceeding dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Nel febbraio del 2008 uscì un articolo, ma questo è uno dei tanti articoli, che si chiamano i tipping elements, gli elementi instabili del sistema climatico, e fondamentalmente il suo concetto, il suo parola di irreversibilità si basa sulla lettura da parte dei suoi esperti e la comprensione di questi risultati scientifici. Sì, dopodiché guardi, lei diciamo si occupa dal punto di vista scientifico, dal punto di vista politico io insisto, leggete oggi il Corriere della Sera, l'editoriale di prima pagina, Obama dice questo davanti al mondo e il suo capo negoziatore dice che insomma Todd Stern sta rifiutando ogni tipo di spare da questi retroscena nei negoziati, pare stia rifiutando ogni tipo di accordo per dire ma voi non capite, voi europei, la politica americana, noi adesso ci stiamo occupando della riforma sanitaria e del clima. No, ma è chiaro. Dall'altra parte c'è il campo della diplomazia climatica. Ma su questo sì, due velocità diverse sicuramente. Vorrei tornare dal professor Battaglia. Professore, ci spiega, sì. ci doveva una spiegazione sul perché, prima ci ha detto vi spiegherò perché non si può ridurre la CO2. Ma guardi, innanzitutto una precisazione, sì. Non è vero come Castellari dice oggi, ha detto anche in altre occasioni, che c'è una sparuta minoranza di scienziati così un po' cervellotici, un po' stravaganti, che dicono le cose che lui non sostiene. Siamo migliaia di geologi, geofisici, fisici, biologi che dicono esattamente la stessa cosa. Il rapporto Climate Change Reconsidered pubblicato dell'NIPCC è stato sottoscritto da 31.000 scienziati. In ogni caso non è questo il punto, perché la scienza non si fa la maggioranza. Sì, non sono i numeri, infatti. Non sono i numeri, il punto non è questo. Tuttavia facciamo per un attimo finta che sia effettivamente un problema, così giusto per il gusto di far finta di ciò. Cosa vogliamo fare? Per l'Italia ridurre del 20%, del solo 20%, le emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 90 significa che noi da domani, se si fa l'aritmetica, noi da domani dobbiamo chiudere tutte le fabbriche di automobili, rottamare progressivamente tutte le automobili esistenti e non andare più in automobile. I numeri sono questi, e una riduzione del 20% farebbe che spero che il professor Castellari mi sarà d'accordo con me, farebbe solo spostare la presunta catastrofe dal, che ne so, 2100, tanto per dire un numero, al 2102. Questo è interessante, voglio ripartire dopo il traffico. Come conciliare il progresso, insomma tutti i progressi, tutta la tecnologia, quello di cui ci serviamo quotidianamente, con la necessità di preservare, avere anche un'anima che preserve, insomma, l'ambiente. Per lei battaglia si può fare tranquillamente, visto che è un non problema, per altri invece no. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, devo dire che per il momento il professor Battaglia non sarà contento, ma l'80% di chi sta votando sul sito dice che sì, insomma, c'è il rischio di pericolo concreto per la Terra per quel che riguarda i cambiamenti climatici. Io saluto il professor Vincenzo Artale, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei è responsabile, buongiorno, lei è responsabile del laboratorio di modellistica climatica dell'Enea, e tra l'altro studia oceanografica fisica. Allora, nella settimana della scienza, che tra l'altro è in corso a Frascati, è stato presentato questo dato sui mari. È vero che quella del 2009 è l'estate record per le temperature marine del Mediterraneo, che non deve essere una buona notizia, immagino. Beh, diciamo che sia a livello globale che a livello regionale, in particolare per il Mediterraneo e dei sottobacini del Mediterraneo, effettivamente quest'anno è stato avuto dei picchi, ma diciamo non è che è un dato che ci sconvolge, diciamo che da molti anni, a molti decenni, diciamo che i picchi, le anomalie maggiori di temperatura si osservano soprattutto d'estate. Cioè, si ricorda quella del 2003, ma c'è stata anche nel 99, e anche negli ultimi anni è sempre stato. Ci sono stati anche dei momenti come nell'86-87, nel 91-92 dei picchi al contrario, freddi. Quindi quello che conta è poi il residuo, cioè da tutte queste oscillazioni qual è la quantità di calore che accumula l'oceano non è come l'atmosfera, è un grande termosifone e ha una capacità termica 1000 volte maggiore dell'aria, e quindi è importante andare a valutare bene il residuo che rimane dopo tante oscillazioni. Questo dato, insomma, deve preoccupare oppure no? È un dato scientifico, come lei dice, che monitoriamo? Queste sono semplicemente osservazioni. Noi quello che stiamo facendo, stiamo anche ricostruendo la serie più lunga possibile di dati sulla superficie, ovviamente solo sulla superficie marina, perché sin dal 1854 era d'obbligo che tutti i comandanti delle navi dovessero fare dei prelievi della temperatura superficiale del mare, perché è quella che interagisce principalmente con l'atmosfera, e quindi questo era un dato sensibile per la navigazione. Quindi ricostruendo tutti questi dati, che ovviamente è un lavoro difficilissimo, perché chiaramente in 150 anni immaginare come sono cambiate le tecniche di misura, e questo si sta facendo a livello mondiale, a livello internazionale, da parte di centri di ricerca autorevolissimi, negli Stati Uniti, in Inghilterra principalmente, e noi siamo in particolare il Mediterraneo, ha una riserva di dati enorme, proprio perché è sempre stato un mare molto trafficato e facilmente immaginabile. Quindi è un dato particolarmente robusto quello che stiamo facendo, che stiamo elaborando, per cui diciamo il dato è essenziale. L'oscillazione naturale è enorme, ci sono delle oscillazioni naturali che nascondono completamente quello, il trend, diciamo, attribuibile all'uomo, che infatti alla fine questo residuo rispetto all'oscillazione naturale è molto piccolo, stiamo parlando di decimi di gradi. Sì, la fermo un attimo su questo. Professor Battaglia, le chiedo, ma sa che ci sono molti che criticano, a dire, c'è qualcuno che ci dice: ma avete un negazionista ambientale in linea? Che immagino si riferisca a lei, insomma, perché è così critico Battaglia, è un negazionista ambientale, no? Cioè, perché molti ci dicono: ma come fa a non vedere che ci sono i cambiamenti climatici? Ma lei forse punto di vista è diverso, lei dice ci saranno, ma l'uomo non conta, l'uomo non c'entra, l'uomo non può far nulla. Ma infatti io non nego né che ci sono cambiamenti climatici, che ci sono sempre stati, non nego neanche. Però va bene così, va bene così. No, non è che va bene, non che non so se va bene, sto dicendo che noi viviamo in un periodo di global warming che è cominciato 400 anni fa quando l'uomo non poteva essere responsabile. E sto dicendo che nel passato ci sono stati periodi di global warming anche maggiori, sto dicendo semplicemente che la causa non è l'uomo, ma è, sono fenomeni naturali sui quali noi non abbiamo alcun controllo. Da questo punto di vista, professor Castellari, anche lei, io sì, sì, certo. Brevemente? Certo, come no? Dica. No, perché conosco i temi classici del professor Battaglia, la piccola era glaciale, questo periodo, diciamo, di abbassamento delle temperature che lui crede globale dal 1400 alla fine del 1800. Il problema è che la scienza progredisce, ci sono sempre più studi e si è sempre visto che questi cambiamenti a cui fa riferimento, diciamo, negli ultimi 2000 anni il professor Battaglia, anche in molti dei suoi articoli sui giornali e sui periodici, fa riferimento al caldo, al periodo caldo medievale tra il 900, 1000, 1200, 1003 e la piccola era glaciale, come ho detto, dal 1400 alla fine del 1800. Però sono periodi, sono stati raffreddamenti e riscaldamenti che, anche se hanno avuto a livello locale delle fluttuazioni di temperatura, sono però a livello regionale, cioè a livello di piccole parti del nord emisfero. Infatti, e questo lo dico, è anche importante da ricordare, su Science, che è una delle due riviste più importanti del sistema scientifico mondiale, Science and Nature, è stato pubblicato proprio nello scorso maggio un articolo dettagliato dove sono analizzati almeno 7.000 anni di dati paleoclimatici, ma in Nuova Zelanda, cioè nell'emisfero sud, e si è visto una cosa molto interessante, che in poche parole, durante il periodo caldo medievale, dove in Europa arretravano i ghiacciai, come stanno arretrando adesso, probabilmente, okay, sì, in Nuova Zelanda invece stavano crescendo. Quindi questo fa vedere come queste perturbazioni climatiche avevano un livello di tipo più regionale, come si dice in termini scientifici, quindi non nord emisferico e non globale. Le chiedo però, Castellari, non come quello che stiamo vivendo. Io devo chiudere, mi dica in 10 secondi, promesso, però in 10 secondi. Battaglia ha detto, che dobbiamo fare? Riduciamo del 20%, andiamo tutti in bicicletta, chiudiamo le fabbriche, chiudiamo le industrie? No, ci sono degli obiettivi che sono stati posti dall'Europa. Il pacchetto 2020 è un obiettivo che è stato votato in Europa l'anno scorso e dice di ridurre del 20% le emissioni. Hai capito, ma Battaglia dice che per farlo bisogna necessariamente fare questo, forse è un'estremizzazione. Dovrebbe portare dei dati, perché qua stiamo parlando del Consiglio Europeo, stiamo parlando di 27 paesi membri che hanno votato e hanno accettato questo documento. Quindi secondo me ci sono dati scientifici che provano che si può fare da qua al 2020 questa riduzione. Staremo a vedere. Io vi devo salutare e ringraziare tutti. Ricordo che sul sito radio24.it, la sezione bianco o nero, andate lì, cliccate e votate il sondaggio. Vi chiediamo se la Terra è davvero in pericolo per questi cambiamenti climatici. Che ne pensate? Devo dire che l'80% degli ascoltatori dice per il momento di sì. Grazie a Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione, Peter Bescapè in regia, e con Bianco Nero e con 24 Mattino, la rassegna stampa, tutto quanto. Domattina ci risentiamo alle 7:30.